Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1837. Emergenza sanitaria per il colera, disordini e massacri di untori in Sicilia. Nuova ondata di panico negli Stati Uniti, giù le borse, chiudono 600 banche. Record delle baleniere americane, in un anno uccisi quasi 7.000 capodogli. Il nuovo regnante inglese è una donna, sale sul trono Vittoria. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Prima della cronaca dall'Italia andiamo negli Stati Uniti, dove, come vi dicevamo nei titoli, si sta scatenando il panico sui mercati dopo le pesanti speculazioni sui terreni dei mesi scorsi. A pesare tra l'altro l'eccesso di banconote, il presidente Andrew Jackson ha emanato una legge che prevede che il governo accetti per le terre solo pagamenti in oro o argento, ma di oro e argento non ce n'è abbastanza. Morale: il numero di vendite di terreni è stato un quarto dell'anno scorso. Molte banche che avevano supportato e guidato pesanti operazioni speculative sono fallite. Il numero non è chiaro perché cresce ogni giorno, almeno 300 comunque nella sola New York, forse 600, e si contano almeno 37.000 casi di bancarotta tra investitori e risparmiatori. E ora la situazione in Italia, dove è scoppiata una terribile epidemia di colera. I primi episodi in Italia di questa lunga epidemia di colera risalgono al 1835, quando il morbo, nonostante i cordoni sanitari, è passato dalla Francia meridionale al Regno di Sardegna. Dall'agosto di quell'anno a oggi, in tutta la penisola, specie in città portuali come Genova o Livorno, si sono registrate migliaia di morti. Ma è dal 1836, dall'arrivo dell'epidemia nel Regno delle Due Sicilie, che la situazione è sfuggita completamente di mano a chi gestisce l'ordine pubblico. Si è sparsa tra il popolo la pazza voce che il colera sia diffuso dagli untori o dal governo, e così si sono ripetuti episodi di violenze e tumulti, con diversi innocenti linciati dalla folla senza ragione per un semplice sospetto. I casi più tragici quest'anno in Sicilia, da dove arriva questo terribile documento. Nell'isola centinaia di persone, spesso anche tra gli amministratori locali, sono state barbaramente trucidate, mentre i tumulti si sono saldati con un'insurrezione. E così il re Ferdinando II ha dato mano libera al marchese del Carretto, che ha arrestato 750 persone, di cui 123 sono state condannate a morte. E dire che la malattia sarebbe già una grave iattura. Nella sola Napoli, tra aprile e settembre di quest'anno, il colera ha ucciso 14.000 persone. A Catania quasi 7.000. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Le baleniere degli Stati Uniti hanno registrato un record nella caccia di quest'anno. I capodogli uccisi sono stati oltre 6.700, livelli che nel settore considerano difficilmente raggiungibili anche negli anni prossimi. Dall'animale vengono estratti i prodotti più vari, dalla speciale cera per candele all'olio per l'illuminazione. È durato poco il regno di Guglielmo IV in Inghilterra, è morto ad un paio d'anni dalla sua incoronazione. Gli succederà la 18enne nipote Vittoria, che dovrà affrontare una serie di problemi, a partire dalla rivolta che è scoppiata nelle colonie canadesi, in particolare al sud, rivolte generate tanto dalla volontà di avere maggiori diritti politici quanto dalle difficoltà economiche che stanno colpendo la zona. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta in studio, e Paolo Piacenza. Potete andare sul nostro sito internet e scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Se volete scriverci, potete farlo via Facebook oppure con il nostro indirizzo di posta elettronica, gazzettino@radio24.it. Una buona giornata.